pallone per chi è giovane può fare. Tengo in faccia l'una chiena, tengo a bocca una canzone, vinto e braccio tengo a te. Dopo un'anno lontana, ma è un sonno sì tu. Gira, gira, gira, amore, sta bucchella in anno sana, quanto di ebba da catone, caroli. Bocca e bocca, fiato e fiato, nuva silla fria e sanato. Non te maderà così. Villanova è a farto mare lu partino pasticare, l'uggetella e gallenare dorma ignora in ta controra, tutta i latte i guarda a te. Mammarella pintando quanto sancio lo fa. Gira, gira, gira, amore, sta bucchella nanno sono, quanta di ebba da catene, caroli. Bocca e bocca, fiato e fiato, nuva silla priessanato. Nunca m'avrà così.